Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9:08 minuti e pensate questa giornata. Buongiorno ai funamboli. Buongiorno Veronica, tu che attendevi questa sera lì con i popcorn già comprati, con... il gusto di poter vedere questo duello politico, queste cose che ti appassionano da morire, poi twittavi tutto il tempo, quanto scrivevi su non Facebook. Te ne fai una ragione che io mi appassiono, eh? No, quanto non te ne capaci, ti dici ma che le frega ma della politica, ma perché le interessa sentire questi che si parlano adesso? Oh, a me piace, ma ci sono tanti tipi di perversione nella vita, ma no? Perversione ognuno ha le sue, a e moltissimi io italiani piace assolutamente, attendevano questo e gli italiani si faranno dare volentieri dei perversi perché tutti soffrono del fatto che stasera no popcorn, no Coca-Cola, no Pepsi, niente a guardare purtroppo il dibattito mancato. Renzi Di Maio. Allora, le 9:09 minuti, chiamateci 800 24 00 24 se volete chiamarci sulla politica, sulla Sicilia, sulla vittoria del centrodestra, sul comunque su quanto il vostro cuore sanguini perché stasera non potrete assistere a questo dibattito, ovvio. E anche che cosa pensate del fatto che non ci sarà questo dibattito. Sulla buona prestazione anche del Movimento 5 Stelle, che non ha vinto, ma è certamente il primo partito in Sicilia, sulla debacle, si può dire, del Partito Democratico. Insomma, se Di Maio ha fatto bene a tirarsi indietro perché ha così delegittimato Renzi come avversario politico, se invece ha fatto male perché ne esce come quello che non si è voluto confrontare perché ha avuto timore... Insomma, le varie letture ipotetiche che ci sono state della questione. Chiamateci perché da qui partiamo. Poi abbiamo tanti altri temi con i nostri funamboli, ma il primo è proprio il direttore che è con noi. E il direttore che è con noi è il direttore del TG della 7, Enrico Mentana. Ciao direttore, che ciao. Questa sera non ospiterà sulla sua rete da Floris il dibattito. Cioè, allora, siamo diciamo sicuri che è l'unico vero sopravvissuto alle elezioni siciliane, il direttore, lo possiamo dire. L'unico che ha dimostrato come sopravvivere a delle elezioni in Sicilia. Quindi allora, complimenti. Che succederà stasera, direttore, da Flores? Ci sarà solo Renzi? Non ci sarà? Ci sarà solo Renzi. Con giornalisti. Come succede negli appuntamenti, se uno da buca e l'altro ci va lo stesso. Questo è chiaro. Ma ha dato buca secondo te perché? Per paura? Perché ha fatto bene? Perché quando sei in vantaggio non si deve mai dare a quello che insegue una chance? Secondo me ha dato buca semplicemente perché era stato un errore sfidarlo. Perché? La lettura meno semplice ma la più ovvia forse. Perché è come quando si dice vieni fuori che facciamo i conti, no? E poi uno dice va bene, vengo. E tu non ti aspetti punto. Ovviamente, quella era una sfida via Twitter fatta per provocare. E rileggendola col senno di poi cosa fa allora Di Maio? Di fronte alla sorpresa di Renzi che dice certo, volentieri. E dice va bene, però allora la facciamo alla 7, la facciamo da Floris. Tutte cose che secondo Di Maio dovevano far dire a Renzi no, allora no alla RAI. Invece ha detto sempre va bene. Secondo me era la classica cosa per non farlo. Poi invece si sono trovati incastrati nella necessità di farlo, per di più con la prospettiva della massima incertezza, perché se perdevano, come poi è successo in Sicilia, era una finale di consolazione tra il secondo e il terzo della Sicilia. E per di più con la situazione di un Renzi che aveva tutto l'interesse a parlare questa sera della sfida futura e non delle ossa rotte appena passate. È interessante però questa lettura, cioè gli ha detto vieni fuori che facciamo i conti e si è trovato uno che ha detto sì va bene li facciamo. E poi esatto, un po' più grosso di lui, perché poi tra l'altro televisivamente era tutt'altro che scontato che Di Maio prevalesse in carrozza, no? Era tutt'altro che scontato. Ma poi invece ognuno, direttore... qui ci sono le due tifoserie, no? Che dicono no, lo ammazza, l'altro dice no, lo ammazza, sì, però... Ma l'idea che ci fosse dietro una strategia politica invece anche voluta poi da Grillo, che fosse proprio quella, magari pensata anche a monte, di mettere l'accento sulla debacle del Partito Democratico in Sicilia, proprio disdicendo questo confronto e dicendo ti mando Di Battista, poi chiaramente non direttamente, in maniera indifferita, però come a dire no, ti mando il mio vice, cioè ti delegittimo. Questa non è una visione possibile? E qual è il vice? Di Battista, nel senso che essendo Di Maio... No, ma non sarebbe stato mai possibile dire no, non vengo, ti mando Di Battista, anche perché sarebbe stato un autogol ulteriore. Ma non sarà così la formula, detto, alla allora, fine? Di Maio non se la sente, manda Di Battista che è più parolato, no? Era peggio. La questione, anche da questo punto di vista, Veronica, non si pone, perché... vedendolo spassionatamente, perché non è che nessuno di noi fa più il tifo per Renzi che per Di Maio, però anche vedendolo da questo punto di vista, se volevano dire che esce delegittimato dal voto in Sicilia di Renzi, lo potevano dire senza fare tutta questa pantomima del duello, no? Lo dicono già gli osservatori, non c'è bisogno che lo dicano loro. Molti hanno ricordato che Renzi aveva rifiutato una sfida a duello televisiva un anno fa proprio di Maio, però l'aveva rifiutata subito, ecco, è questo balletto effettivamente. Ecco, non solo, ma Di Maio in quel momento era soltanto uno dei tanti, non tantissimo, ma era uno dei tre, perché era lui, Di Battista, sì, e Fico. Dopo, nel frattempo, Di Maio è diventato il candidato premier, sì, dei 5 Stelle. Tanto che oggi ci scrivono i giornali che è stato Grillo in persona, qualche giornale, a dire no. Ma è vero? Cioè, a voi cosa risulta? Chi ha disdetto? Ma, guarda, se ti dovessi dire, io ho un alibi perfetto, perché nelle ultime 48 ore sono stato sempre in televisione a parlare. Non ho avuto modo di approfondire. Questa era la premessa. Infatti io volevo anche informarmi su quali sono le sostanze da assumere. Però questo poi lo volevo fare come ultima domanda. Poi magari lo chiamo in altra sede. Invece volevo chiedere una cosa seria: il fatto che loro comunque, al di là del fatto che poi il confronto non si terrà, avessero scelto la 7 e avessero in qualche modo snobbato il servizio pubblico, chiaramente su sollecitazione di Di Maio, però si fosse deciso e fosse stato unanime che la RAI non fosse in grado di ospitare un confronto di questo tipo tra i principali leader politici italiani. Non è così. Adesso sarò l'ultimo a difendere la RAI e sono stato contento poi quando è stato scelto Floris, anche perché era partito un concertino sul servizio pubblico che sembrava averci riportato indietro di 40 anni, sì, no? La centralità del servizio pubblico è come se una partita di calcio fosse più nobile perché viene trasmessa dalla RAI piuttosto che da Sky. Non esiste, no? Non esiste proprio più tecnicamente questa cosa. E mi permetto di dire che ho fatto Berlusconi Occhetto nel 1994 su Canale 5. Quindi e lì la RAI era ancora un'altra cosa, ancora... no? Non c'era ancora il sistema mistissimo che c'è adesso. E mi è capitato tante volte di fare, nelle varie mie escursioni sulle reti private, di fare altre cose. E altri le hanno fatte. E lo stesso Partito Democratico, lo stesso Renzi, ha fatto tutte le ultime sfide delle primarie soltanto su Sky. L'unica sfida delle ultime primarie, quelle che lo hanno riconsacrato segretario e quindi candidato premier del PD, sono state... No, ma è chiaro, il succo era su Sky. Il succo era la sfida, voglio dire, Renzi, Di Maio, poi dove si svolgeva. Dove si fa? L'ho fatto anche in un teatro con la libertà a tutti di trasmetterla. Comunque, la sfida era la sfida. E dire la guerra del Golfo l'ha vinta la CNN perché l'ha trasmessa in diretta. C'è da dire, direttore, no, una cosa mi ha colpito perché Rico Mentana dice: ho condotto Occhetto Berlusconi. Ora Occhetto non c'è più da un pezzo politicamente parlando, mentre Berlusconi è lì. Ecco, non solo vive e lotta insieme a noi, ma è colui Berlusconi è una speranza per ci tutti. È una speranza per tutti. È difficile parlare del problema dell'innalzamento dell'età pensionabile quando hai Berlusconi, che 81 anni, è un aspirante leader. Ma è chiaro, è vero, è proprio così. È l'aspirante lì. Oggi fa un'intervista sul Corriere della Sera a dire: insomma, mi hanno dato 200 milioni di voti gli italiani. Sono io, Berlusconi, il leader del centrodestra. E che succederà? Allora, la questione è che tutti coloro che non l'hanno mai votato non lo voterebbero, o l'hanno votato e gli hanno voltato le spalle elettoralmente, ridono di fronte a questo. Però tecnicamente Berlusconi può tornare a Palazzo Chigi, nel senso tecnicamente, se Strasburgo gli ridà l'eleggibilità, se Forza Italia prende un voto in più della Lega. Berlusconi è candidato a Palazzo Chigi. E invece Renzi? E invece Renzi lo pure. Invece Renzi pure. Invece Renzi pure, nel senso che può anche dire, adesso posso, perché questa cosa di Di Maio, non è che Di Maio è diventato il primo incoerente della storia italiana, cioè Renzi è lì nonostante avesse detto mi ritiro dalla politica se perde il referendum, potrei fare una casistica lunghissima che riguarda tutti, il paesaggio sarebbe sterminato della politica, invece ci sono ancora tutti. Direttore, ma questo è un po' l'inizio della fine di Renzi o no? Nel senso, questa è la domanda che tutti quanti... Stavo proprio dicendo che quante volte abbiamo detto questo è l'inizio della fine di Berlusconi? Può dire, questa è la fine della fine di Berlusconi. Dal 2001 in poi io me lo... No, ma no, perché tu sei giovane, però ti assicuro che già quando venne fatto fuori da Scalfaro, no, che fece il governo Dini, si disse questa è la fine di Berlusconi. Esatto. Quando poi l'anno dopo, nel 96, perse contro Prodi, si disse ora non c'è più Berlusconi. E invece è il candidato più... Poi che era ammalato, io mi ricordo un articolo in prima pagina sul Corriere di Francesco Merlo che allora lavorava e che diceva il tramonto di Berlusconi, lo abbandonano tutti, sanno che è malato, cioè era una cosa, e se lo vai a cercare è un articolo di penso 20 anni fa. E quante altre volte, e quando andò da Napolitano al Quirinale a segnare le dimissioni c'era la festa di piazza al Quirinale, chi avrebbe mai pensato che dopo 6 anni si sarebbe parlato di lui potenziale padre nobile di una nuova maggioranza o addirittura leader esecutivo di una nuova maggioranza. Quindi meglio risparmiarsi le prefiche politiche, insomma, e vedere che succede. Assolutamente, non valgono per nessuno. Sta tornando Veltroni. Sì. Cioè, in politica nulla si crea probabilmente, ma nulla si distrugge, soprattutto i politici. Questo in Italia abbiamo visto. Abbiamo citato prima Occhetto, che forse è l'unico che si è ritirato, gli altri sono tutti. Sta per ricandidarsi. È ancora in tempo. Ricordiamo che abbiamo sindaco De Mita, Annusco. Insomma, Annusco, ma che D'Alema sta per ricandidarsi, no? Cioè alle elezioni ci sarà anche D'Alema, torna in Parlamento. Un conto è farlo come Berlusconi da possibile candidato leader, un altro conto, con tutto rispetto per D'Alema, non è, come dire, non avrà un ruolo di primissimo piano, mentre Berlusconi D'Alema è uno che tecnicamente, visto che ragioniamo tecnicamente, se il centro-sinistra poi, come oggi auspica Franceschini in un'intervista anche questa importante, il centro-sinistra poi dice facciamo come Berlusconi, tra l'altro Franceschini dice facciamo come Berlusconi, perché dice Berlusconni, che è per quello più svelto di tutti, ha capito che bisogna fare le alleanze di area anche se non si è d'accordo su niente, no? Come fa lui con Salvini e la Meloni, certo. Quindi lo dobbiamo fare anche noi, mettiamo che questa cosa poi abbia un buon esito e che il centro-sinistra riesca a arrivare primo e entra nel governo, perché D'Alema non può candidarsi a ministro degli esteri? Certamente. Per esperienza, cioè, perché poi superata la fase in cui tutti dicono tu sei un disgraziato, tu sei un imbecille, tu sei indegno, puzzi, tutte le cose. Poi come sappiamo, per andare al potere in qualche modo è chiaro. Poi quando si fanno i conti reali, certo. Bersani ha concluso la campagna elettorale all'insegna del smacchiamo il giaguaro. Dopo 2 mesi erano al governo insieme questo giaguaro. Staremo a vedere. intanto caro direttore, noi ti ringraziamo tantissimo, Enrico Mentana, direttore, grazie noi, e complimenti ancora per tutto. I segreti di resistenza poi un giorno chiamerò per averli. Va bene, grazie Enrico Mentana, direttore del TG della 7. Dunque non vedremo il duello questa sera, ma insomma vedremo delle belle, ecco, come si suol dire. Allora Veronica, tante ci chiamano, lo so, popcorn risparmiati, ma ci sono delle partite di cricket questa sera molto interessanti secondo me su Sky. Cricket. Sì, posso sempre leggere uno di quei romanzi che piacciono a te. Anche badminton, per esempio. Protagonista di Wayne. C'è Francesco da Catania. Tu non sai nulla di calcio, sai solo Higuain, mamma mia. Francesco da Catania. Ho già imparato delle parole importanti. Sì, Francesco, che vuol dire? Buongiorno Veronica, buongiorno Alessandro. Eccoci qua. Buongiorno. Dunque, io volevo dire che la scelta di Micari è stata probabilmente ascritta a una situazione di noia del PD in Sicilia. Vi ricordo quando fu candidato Micari e in Sicilia cominciavano a campeggiare i primi manifesti con il payoff, la sfida Gentile. Tutti sapevamo che Micari non sarebbe riuscito a salire. Prima di tutto, infatti, non è stato neanche molto non è stato neanche molto appoggiato da Renzi, non è stata una campagna. Assolutamente. Renzi ha preferito Obama piuttosto che la Sicilia, scelta che sicuramente non ha. Vabbè, che adesso tra Obama e Micari, con il massimo rispetto, non lo so. Però Francesco. Beh, se c'è un risultato da conseguire, bisognerebbe prendere. Francesco, non lo ascolti, se contrappone Micari a Obama, capisce? Tendenzialmente, allora, se metti la faccia su una campagna elettorale, dico soltanto che se nel breve termine il problema era non fare questo tipo di figuraccia, si poteva dare un colpo al cerchio e un altro alla botte. È proprio un problema di comunicazione. Sì. La sfida Gentile non c'è stata, perché l'elettore annoiato in Sicilia è stato proprio quello del PD, contrariamente a Nello Musumeci, che ha avuto una campagna di comunicazione molto efficace. Ma certo, all'inizio l'unico pizzo che piace ai siciliani. Sì. No, ma è chiaro, Francesco, è chiaro la sua analisi. La ringraziamo per questa analisi. Però, Veronica, tanto gli ascoltatori continuano a chiamare su questo tema. Noi dobbiamo cambiare anche dobbiamo però, ammettere registro. Che l'argomento mi galvanizzava abbastanza e ti terrei qui fino alle 11 di stasera, non di stamattina, a parlarne fitto. Però, purtroppo... Fitto? L'ex ministro, cosa c'entra? Bravo, vedi, adesso cerchi anche di cogliere le citazioni e parlare di politica. Dai, cosa non si inventa. Parliamo per di università, signori, e di concorsi. Allora, le cronache sono piene di concorsi che finiscono poi in scandali, presunti scandali. Mi raccomando, usiamo sempre il condizionale, perché poi ci sono i processi da fare, ci sono tutte le verifiche da mettere a punto. Ma ci ha colpito, Veronica, il fatto che 13 professori universitari, ricercatori, persone che hanno anche un ruolo, sono strutturate all'interno dell'università, si riuniranno venerdì per fondare un qualcosa che, per carità, loro ci tengono subito a dire, non è l'ennesimo sindacato, anzi totalmente non c'entra nulla. Ancora non è stato fondato, è tutto in via di definizione, però... Però sono persone che dall'università, nell'università lavorano, ma nel mondo universitario sono stati, come dire, brutalmente anche osteggiati per le loro denunce, e allora vogliono riunirsi per cercare di dare voce a tutti coloro che hanno fatto come loro. Salutiamo Giulia Romano, buongiorno, ricercatrice buongiorno. All'Università di Pisa, e buongiorno. Salutiamo l'avvocato Giuliano Grüner, che è ricercatore a Tor Vergata. Buongiorno, avvocato Grüner. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, intanto Giulia Romano, forse le cronache ve le ricordate, livornese, sì, denunciò con tanto di registrazione fatta dal marito di un concorso, dobbiamo dire presunto concorso truccato. Giulia Romano, lei capisce, no, che dobbiamo sempre andare coi piedi di piombo, perché sennò di un concorso, esatto, cioè lei avrebbe vinto per merito una cattedra che però le sarebbe stata negata perché ecco, chiediamo a lei, Romano. No, diciamo, come un po' hanno raccontato le cronache, i giornali, io non dico che avrei vinto, perché non lo so, il problema è che a seguito di un mio ricorso al TAR per un concorso che si era svolto nel 2016, il presidente della commissione di questo concorso è andato in ufficio da mio marito e gli ha raccontato tutta una serie di cose relative sia a quel concorso che io avevo impugnato al TAR, sia anche a un concorso che in quel momento specifico, stiamo parlando di febbraio di quest'anno, del 2017, era in corso di svolgimento, sia tutta una serie di altre cose. E che genere di cose... Che genere di cose gli ha raccontato? È perché suo marito ha registrato questa conversazione. Quindi questo è il punto, c'era il punto qualcosa chiave, che c'era qualcosa che non andava detto in quello che ha detto. No, diciamo che mio marito ha registrato, perché effettivamente non è per dei ricercatori universitari la cosa più scontata del mondo fare ricorso al TAR per un concorso nel quale non si vince, no? Non è che quello dovrebbe essere la strada, però c'erano delle cose che ci avevano colpito a me personalmente, insomma, perché cioè, in sostanza, in quella registrazione il Presidente della Commissione ha detto che lei avrebbe avuto i titoli per imporsi, per qualità, per competenze, però... Diciamo però... c'è una cosa un po' diversa, cioè in questa conversazione no, intanto non viene mai detto che io non mi meritavo a giudizio di questo professore il posto, anzi, però la cosa peggiore è che lui racconta il fatto che quel concorso si è svolto a seguito di un accordo precedentemente preso nel quale era già stato scelto il vincitore. Che poi la cosa che colpisce è un po' questa, Giulia, anche a te lo dico, Alessandro, il fatto che viene detto, cioè molto spesso in questi ambienti non è quando se ne parla, viene detto anche non con pensava di essere registrato, evidentemente. Sì, è chiaro, in quel contesto no, però come dire, funziona così il sistema, si sa. Ma e un po', si un ripetono po'... tra di loro il fatto che le cose vanno così, per cui lei che si poteva aspettare, lo sappiamo che è brava signorina, però purtroppo aggiungo, diciamo, questo al di fuori, no, degli aspetti magari giuridici, legali, però anche a mio avviso è la sconvenienza di parlare del lavoro di una ricercatrice con il marito, no? È chiaro. Vogliamo sentire anche l'avvocato Grüner, che invece come storia personale, possiamo dire, a Tor Vergata ha avuto, come dire, un qualche problemuccio con il rettore di Tor Vergata. È vera la frase del dopo un ricorso al TAR, finché sarò rettore io, lei qui non sarà mai professore, avvocato? Beh sì, è vera perché è stata registrata da me. Diciamo a Tor Vergata siamo al 2.0, cioè non siamo ai concorsi truccati, a Tor Vergata siamo in una situazione in cui i concorsi non si fanno proprio, nel senso che io, pur avendo nei titoli, perché ho conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia, ho chiesto di partecipare a un concorso interno, mi è stato detto lei non può partecipare. Perché? Con quali motivazioni? Esatto, a che titolo questa risposta? In base ad una interpretazione di una norma del regolamento dell'Ateneo di Tor Vergata, in base alla quale, ma questa è l'interpretazione che ne fornisce l'Ateneo, i singoli dipartimenti sarebbero liberi di scegliere in tu persone chi nominare direttamente professore senza concorso. Così autonomamente, in maniera al 2.0. Però è interessante capire, cioè voi quindi cosa farete? Visto che non sarete un sindacato, appunto, ci tenete a dirlo. Te le dire questo, però le dico subito. Quindi io ho semplicemente proposto un ricorso al TAR per il fatto non di aver perso un concorso truccato, ma per il fatto che io non ho potuto partecipare a questo concorso. Ora io neanche so come andrà a finire questo ricorso al TAR, forse vincerò, forse perderò, siamo in attesa della sentenza. Ma intanto c'è stato un rinvio a giudizio, no? Giusto, dalla Procura di Roma, chiesto per tentata concussione e istigazione alla corruzione. Certo, perché per il solo fatto di aver presentato questo ricorso, io ho cominciato a subire una serie di quelle che io ho percepito come minacce. Una vicenda del tutto analoga è accaduta a un collega che ora è diventato anche mio amico di chirurgia generale, affinché ritirassimo questi ricorsi. Le minacce si sono fatte sempre più pressanti finché a un certo punto sono stato invitato dal rettore, naturalmente mi sono portato dietro il registratore non perché io sia aduso registrare le conversazioni sapeva che la situazione era un po' prima. E questo rettore mi dice: se tu non ritiri il ricorso, trovati un altro ateneo, sei morto, sei finito. Ma infatti la frase finché faccio io il rettore, lei qui non sarà mai professore, ormai esula anche dal principio delle raccomandazioni, è proprio una cosa ad personam ormai. È una cosa ad personam, ma infatti io poi ho preso quella registrazione, l'ho tenuta lì per un po' per la verità, poi ho continuato a subire altre minacce affinché ritirassi questo ricorso. Mi hanno addirittura minacciato l'avvio di procedimenti disciplinari eccetera eccetera finché ho ritenuto la situazione intollerabile e ho preso carta e penna, ho scritto alla Procura della Repubblica, ho portato tutto in Procura e naturalmente sono in quanto giurista il primo a conoscere l'articolo 27,2 della Costituzione, quindi l'imputato non è considerato colpevole fino a sentenza definitiva. Però il 18 di dicembre ci sarà questa udienza preliminare dove io sono persona offesa insieme al collega di chirurgia Pierpaolo Sileri, nella quale il pubblico ministero, certamente non noi, il pubblico ministero, sulla base delle nostre denunce, contesta la tentata concussione. Allora, avvocato Grüner, però un punto è importante. Voi cosa volete fare? Volete dare voce alle persone come voi? Voi siete in due, siete già in 13, volete in qualche modo far capire che chi vuole denunciare all'interno dell'università non si deve sentire solo, perché questo succede, l'isolamento. Come vi chiamerete? Non si sa ancora. Allora, francamente non lo sappiamo ancora. Allora, perché noi, si è detto università libera, università pulita. Ma guardi, io proporrei, adesso ci incontreremo finalmente tutti insieme venerdì a Roma, e ci incontriamo a Roma per una questione semplicissima. Nel suo studio, quindi sappiamo che appuntamento a casa di Giulio. Sì, ma non è nel mio studio in quanto io sia avvocato, no, è nel mio studio semplicemente perché per questioni logistiche Roma viene più comodo a tutti, perché ci sono ragazzi studiosi del nord, del centro, del sud, e quindi abbiamo deciso. E cosa vorrete fare? Cosa volete creare? Allora, io francamente il nome del gruppo ancora non lo abbiamo stabilito, forse quello migliore sarebbe università normale, ecco, perché per riprendere una frase di una canzione di Lucio Dalla. Però c'è già la normale di Pisa, c'è la già la normale. Ma qui, sì, ma è vero. Non è la normale di Pisa. Vabbè, no, faccio già le pulci, faccio già le pulci. Ha ragione, no, mi riferivo alla canzone di Lucio Dalla, l'impresa eccezionale essere normale, vale a dire. Perché ecco, perché qui siamo arrivati a un punto per cui veramente all'università è una cosa eccezionale che le cose vadano in maniera normale. Noi siamo un gruppo, ci siamo conosciuti finora solo per telefono o per WhatsApp o per email, eccetera. Ma come è iniziata la cosa? Cioè, ciascuno è venuto a conoscenza del caso di un altro? Sì, e avete iniziato a entrare io in contatto? Io ho letto di Giulia, che peraltro saluto, sul Corriere della Sera, altri hanno letto di me sul Fatto Quotidiano e così via. Abbiamo cominciato, insomma, a confrontarci fra di noi e abbiamo ritenuto opportuno creare un gruppo, un'associazione, chiamiamola come vogliamo, insomma, e il cui scopo, come avete giustamente detto prima, non è assolutamente uno scopo sindacale. Cioè, assolutamente no. Noi ci proponiamo di essere, diciamo, un punto di riferimento per tutti coloro i quali operano all'interno dell'università, riscontrano irregolarità più o meno gravi nell'ambito, e vogliono farlo sapere, cioè, possono non sentirsi isolati, esatto. No, però si fermi un attimo, avvocato, perché andiamo un attimo in pubblicità, ma rimanete con noi. L'avvocato Giuliano Grüner e Giulia Romano, guarda che ci sono anche ascoltatori che chiamano sul tema università, riprendiamo tra un attimo dopo la pubblicità. I funamboli. Beh, ragazzi, Mentana for president. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to cut the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Secondo voi, se i 5 Stelle avessero vinto in Sicilia, Di Maio avrebbe rinunciato al dibattito TV con Renzi? Se stasera salta il confronto Renzi-Di Maio, è meglio per lo spettacolo e la cultura. Tutti al cinema o a teatro, coi popcorn. Vabbè, esistono anche i telecomandi. Comunque anche io devo dire, Mentana for president, effettivamente una lucidità sempre di Mentana quando fa le analisi politiche, non quando l'intervista, non solo, ma poi quando poi fa le analisi molto fredde, no, e ma lucide, poi veramente precise, ha un vigore e una forza di gestione dai social ancora, network. Questa cosa ti ha sconvolto. No, te lo giuro, io non ho nemmeno un centesimo della forza che c'ha lui. Io se faccio la maratona elettorale di Mentana, io faccio Mentana, poi dopodiché mi dovete ricoverare per una settimana. Allora. Lui ieri stava pimpantissimo, finita la giornata, si è cambiato look. Ha fatto per il pomeriggio speciale della 7 con queste cose che a me piacciono, ma non avrei la struttura, capito? Allora, con noi ci sono l'avvocato Giuliano Grüner e Giulia Romano, due universitari, nel senso che insegnano all'università, ma insieme ad altri ricercatori, professori, stanno mettendo in piedi un gruppo per aiutare tutti quelli che denunciano dall'interno, diciamo, concorsi così così. Vedete, per esempio, Fabrizio ci chiama da Roma. Buongiorno, Fabrizio. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. No, io volevo portare la mia testimonianza, nel senso che in realtà quello che è incredibile è che questo sistema esiste da decenni. Cioè, voglio dire, io sono a 47 anni, sono laureato a 24 anni in architettura e ho iniziato da subito a fare un'attività di tutoraggio all'università. Ma in realtà è un sistema che da sempre funzionava così. Cioè, lei l'ha toccato con mano, può dire funziona assolutamente, così? Assolutamente, assolutamente. Il sistema era tendenzialmente affiancarsi ad uno dei docenti che dal punto di vista accademico aveva un potere importante, quindi non dal punto di vista professionale, perché magari dal punto di vista professionale non era nemmeno un grandissimo architetto, ma dal punto di vista accademico aveva una grande risonanza, perché poi in realtà si sapeva che dal punto di vista dei concorsi aveva un potere politico. Cioè lei dice si sa da sempre, Fabrizio. Ma si sa da decenni, e quindi questo è anche il grande rammarico, che poi questa situazione non si è mai modificata, a differenza delle grandi... Guarda, le telefonate sono tutte così, mi dicono, perché per dar spazio a tutti. Sentiamo anche Gianni da Milano. Gianni, lei che dice? Sì, io ho 70 anni, mi sono laureato nel 74 e nei primi anni 70 i concorsi funzionavano esattamente così, cioè la commissione era formata da 2, 3, 4, 5 cattedratici e questi si accordavano: in questo concorso vince Tizio, quando sarà il concorso nella tua università vinceva Caio, e ci si metteva mettevano d'accordo. È incredibile che dopo 50 anni sia ancora così, così. Non so, Giulia Romano, capito, insomma... Cioè, della serie è sempre successo, da quando il mondo è mondo, va così. No, lo diciamo ovviamente con amara ironia, Giulia Romano. Sì, no, assolutamente, purtroppo per me è stato molto triste, no, ritrovarmi in una vicenda come questa, perché io sono un po' più giovane degli ascoltatori che hanno parlato, e sinceramente sono quasi 20 anni che lavoro, sono una l'ultima parte all'università, e francamente nelle mie esperienze precedenti non posso dire in assoluto che non ci fossero problemi di raccomandazioni, però con l'impegno, con il curriculum, io sono riuscita a vincere altri concorsi. Sì, poi un conto è viverla sulla propria pelle, cioè subirla sulla propria pelle. Quando si imbatte appunto in qualcuno che proprio te lo dichiara tranquillamente, che sedeva in quella commissione, essendosi prima messo d'accordo su non solo su quel concorso, anche su altri, insomma, francamente fa male. Però Giulio, io volevo chiederle una cosa, anche da donna, no? Le due cose sono molto diverse, però abbiamo visto questa ondata di denunce che c'è stata, per esempio, sulle molestie femminili alle donne, adesso togliendo la parte di gossip, le vittime conniventi, però finalmente qualche cosa che viene denunciato e che viene palese, viene allo scoperto, e anche una sinergia collettiva nel parlarne tutti insieme. Non può verificarsi una cosa analoga anche nel sistema universitario? C'è stata l'inchiesta sui baroni, che è stata una cosa importante, comunque risale un mese fa, ora questo vostro tentativo di unire, no? Di unirvi insieme e uscire dal silenzio. Non potrebbe verificarsi una cosa analoga e cambiare proprio il modello culturale? Guardi, questo è proprio quello che ci auguriamo. Sinceramente, io ho passato dei mesi interi di una sensazione di solitudine. Tenga conto che in questa registrazione io ho dovuto sentire: lei ha tutto l'ateneo coalizzato contro. Sì, lei è una brava, però le piace farlo vedere, è troppo autonoma, cioè, ripeto, in più ci metto il fatto che del mio lavoro, diciamo del mio futuro, si è scelto di andare a parlare con mio marito, no? Non con me. Sì, un sistema patriarcale proprio, sì. Sì, cioè, ecco, come ha detto giustamente lei, no? C'è un aspetto professionale, proprio una sensazione molto squallida, umanamente parlando, no? Quasi giocare con il destino, con il futuro professionale delle persone. E in più, nel mio caso, come probabilmente in quello di altre donne, c'è anche questo svilimento. Sì. No? Parlo col tuo tutore, motivo? Perché chiaro, tu non sei autosufficiente. Cioè, no? Come se ti catalogo come un minus talent, no? Vado a parlare con tuo marito, che è più ragionevole. Ma è chiaro, no, ma c'è una vicenda. Testa matta, e quindi... Allora... quindi, insomma, è quello che ci auguriamo, che tanti si muovano in questa direzione e capiscano quanto è giusto, no? Questo sì, vedremo i prossimi passi. Avvocato Grüner, per concludere, ma siamo proprio in rapida conclusione, c'è già un modo per contattarvi? Avete almeno o un sito o comunque un punto di riferimento per chi all'interno dell'università volesse già prendere contatti con voi? Naturalmente sì, allora c'è già una petizione su change.org che ha raccolto in pochissimi giorni più di 1000 firme, più di 1000 sottoscrizioni. E poi istituiremo... Petizione come? Cioè come la si trova? Petizione la si trova andando università libera, l'università che vogliamo. Ah, ok, l'università che vogliamo. Che vogliamo. Io vorrei dire una cosa, se me lo consentite, sì, perché condivido moltissimo quanto ha affermato la conduttrice poc'anzi, vale a dire, lagnanze sui concorsi universitari truccati ci sono da sempre, tutti dicono sì, è così, è sempre stato così, abbiamo sentito l'ascoltatore di prima di 70 anni che dice anche ai miei tempi era così. Io però vorrei porre una domanda, ma quanti di costoro hanno denunziato? Perché questo sistema va avanti perché tutti se ne lamentano in privato, oppure tutti se ne lamentano così in pubblico in maniera generica, ma nessuno si rivolge all'autorità giudiziaria. Ecco, la novità vera del nostro gruppo è proprio questa, cioè denunciare alle autorità giudiziarie cosa accade dentro l'università. E questo è un punto fondamentale. È l'unico modo per far sentire i cosiddetti baroni un po' meno baroni, perché vi assicuro che anche un rettore, anche il più potente dei rettori, chiamato da un pubblico ministero, e non ha più tanto quell'aria arrogante che ha detto. Sì, cambia, anche in quel senso di onnipotenza e di intoccabilità. Certo. Questo è un punto fondamentale, anche perché essendo lei avvocato, insomma, ci sarà anche questo, immagino, questo tipo di tutela. Noi vi ringraziamo molto, avvocato Giuliano Gruner e Giulia Romano. Ci terremo aggiornati su questa questione. È il momento del traffico, tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i Funamboli. Buongiorno, allora saluto Mintana e saluto Veronica. Tuo Milan no. Non dormiamo neanche del mancato confronto tra Renzi e Di Maio. Ha fatto bene Di Maio non andare, perché è una persona intelligente, perché Renzi sappiamo che è un grande comunicatore, ma sta perdendo dappertutto. Oh, invece io la saluto, caro ascoltatore, come non saluto saluta, Leonardo Manera. Buongiorno. Non ti saluta. Ma che Renzi sia un grande comunicatore non sarei così. No, invece non sarei così sicuro, perché visti gli ultimi risultati, insomma, vuol dire che non è. E poi... fu un grande comunicatore. Comunque posso dire che io il confronto Renzi-Di Maio non l'avrei guardato comunque. Ognuno che si accusa reciprocamente, insomma, una cosa un po' noiosa. Ma Leo, perché non ce la fai tu domani una sintesi del dibattito? Critico sarebbe stato. Sarebbe un sogno, e questo sarebbe un mio piccolo regalo personale. Qualora tu volessi. Ma non lo so, pensaci. Anche solo per me, se non vuoi farlo in radio. Stamattina mi ha colpito il fatto, a parte che io in metropolitana sono l'unico che legge il giornale, perché venendo sulle scale mobili. No, anche in metropolitana guardano solo il telefonino le persone ormai, io dovendo essere minimamente informato venendo qui. Ma ho letto minimamente. Per forza di cose. Controvoglia anche, per esempio, devo dire. Hai letto quello che ha fatto una strage perché ha litigato con la suocera in Texas? Ha ucciso tutti, donne, per la suocera. Allora, io ogni mattina prendo un quotidiano diverso. Stamattina ho preso Repubblica. Mi ha colpito leggere l'editoriale di Enzo Mauro su Repubblica, perché è una pietra tombale sul PD di Renzi. Sì, è vero. Non me lo sarei mai aspettato che un giornale come Repubblica distruggesse così in modo definitivo il PD di Renzi. Quindi stanno cambiando i tempi. No. E poi le elezioni siciliane mi hanno messo in grande crisi, caro Alessandro. Perché? E Veronica, perché a me piaceva andare a votare in generale, no? A me adesso non so più chi votare, ancora di più dopo le elezioni siciliane. Io voglio andare a votare perché ci sono tante cose che mi piacciono del voto, per esempio gli scrutatori. A me piace salutare gli scrutatori, perché non è che uno scrutatore lo vedi in giro tutto l'anno, lo scrutatore lo vedi solo quando ci sono le elezioni. È come certi animali che d'inverno vanno in letargo e si rifanno vivi solo in primavera. Ecco, per lo scrutatore la primavera è il giorno delle elezioni, perché per tutto il resto della vita, per tutto il resto dell'anno lo scrutatore va in letargo, ma in quel periodo, durante le elezioni, lo scrutatore si fa vedere in tutto il suo splendore, diventa anche sensuale. Lasciamo stare se è donna o uomo, ma io uno scrutatore me lo farei, mentre dice il mio nome come se fosse scritto su una scheda. Leonardo, Leonardo, nulla, bianca, Leonardo. E poi c'è il presidente di seggio, il segretario di seggio e la lavagna, dove puoi controllare l'affluenza alle urne seggio per seggio. A me, quando ci sono le elezioni, piace entrare in tutti i seggi della mia città e vedere le differenze tra un seggio e l'altro, dove si è votato di più, di meno. Ho passato intere domeniche a fare il giro dei seggi, forse per questo che la mia ex mi ha lasciato. E poi mi piace consegnare la carta d'identità, prendere la scheda elettorale, aprirla per mettere la X. Ma prima di mettere la X, quell'attimo di riflessione finale, quel momento in cui penso sto facendo bene o male, è questo quello che veramente voglio? Riflessione che di solito si conclude con no, no, no. E comunque la X da qualche parte di solito la metto, anzi, siccome io sono un vero democratico, ne metto due e comunque vado a votare. E poi mi piace uscire dal seggio, riprendere il documento d'identità e sentire che il segretario dice Manera ha votato. Mi piace sentirlo, poi in quel momento tutti possono sentire che ho fatto il mio dovere, che sono un cittadino facente parte di una comunità che si adopera per il progresso democratico. Sono orgoglioso di quella X, chiunque io abbia votato, insomma, proprio chiunque no, però diciamo di sì alla fine. E poi aspetto le 10 di sera per guardare la maratona di Mentana, gli exit poll e quella frase che mi piace tantissimo e che dicono sempre i politici, prima di commentare aspettiamo i primi dati reali. Mi piace perché lì viene fuori la vera anima del politico, che se è in vantaggio con gli exit poll comunque gode come un riccio, ma non lo dà a vedere. Se sta perdendo con gli exit poll ha già la morte nel cuore, vedi nei suoi occhi lo scranno che si allontana ma non lo fa vedere e finge, io godo, lo so che sembra un maniaco, ma è così. Mi piace per un giorno ogni tanto guardare i flussi elettorali, sperare in un'Italia diversa, finché la mattina dopo è cambiato poco, restano solo le polemiche. In un'Italia che fa troppa fatica a cambiare, allora accendo il computer, lascio da parte le lezioni e poi, come sempre, vado su YouPorn. Che conclusione, peraltro hai detto una menzogna pura, vera. Lo so qual è, Manera ha votato. Al limite dirà il signor Bonetti ha votato. Il signor Bonetti lì si crea un problema, cioè lui arriva al seggio, gli scrutatori lo riconoscono, signor Manera, baci di qua di là, poi arriva con la scheda Bonetti. Ma voi non capita quando mettete la X in quel momento di pensare per un attimo, anche se avete già deciso di dire adesso sto voto lo do veramente a loro o no? Mettere ma sempre la mano perché ho paura di sbagliare. Tutte le volte mi prende subito la sindrome, oddio ho sbagliato, sicuramente non ho votato quello che dovevo, è finita. Sai quella cosa, subito un attimo di panico. Però invece la cosa più bella del voto, lo possiamo dire, è che dopo che hai votato hai diritto a lamentarti. Cioè soltanto per avere il diritto alla lamentazio, che se ci sentisse il nostro psicoterapeuta della settimana scorsa, giù botte. Puoi lamentarti anche se non voti, So che tu su questo però soprattutto però non puoi mettere... non puoi lamentarti se non vai in onda al giornale radio, cara Veronica. Dobbiamo chiudere lì, poi mi posso lamentare perché mi hanno mandato la a casa la seconda ora di Funamboli tra poco. Donna, vuoi far accettare il pesce a tuo figlio che lo rifiuta costantemente in modo pedante e irritante? Allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente, i bastoncini tipo capitano ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo, ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce. Bastoncini del sottotenente, fan contenti la mamma, fan contenti i bambini, fan contenti i merluzzi. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. I Funamboli. Però non si faccia che sia, cioè c'è da registrare i professori, cose che dici no, non puoi. E ormai l'Italia è che sì, non è che ho potuto mi cangiare sempre ogni volta. Il messaggio rassegnato di un ascoltatore, Abbiamo colto così. Ormai l'Italia è così, non è che la possiamo cambiare sempre ogni volta. Brava. No. Ti ricordi quando facevi l'altra trasmissione? Ci sono cose che capitano, finché c'è gente che dice sono cose che capitano. Esatto. Estratto da questo pazzo mondo. Non si può cambiarla sempre, ma si può cambiarla ogni tanto. Ogni tanto sì. Questa è la seconda ora dei Funamboli, per esempio. Non cambiate canale, state su Radio 24. Quello, ecco, non, è l'unica cosa che proprio non potete cambiare mai. Canale sul telecomando della radio, che questa non esiste. Mi sembra una però minaccia un po' come quella del rettore al nostro ospite. No, no, no, assolutamente. Sono cose che capitano. C'è gente che ascolta solo Radio 24. Ieri un signore. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Ecco, carino. Ieri ho incontrato un signore che saluto, Gustavo, dice: io ascolto solo Radio 24, oh, sempre. Mi sembra anche un po' una perversione, diciamo. No. C'è Francesco da Roma, buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Senti, volevo portare la mia personale testimonianza su questa tematica. Ho iniziato con una carriera universitaria basata sul precariato, quindi laurea in ingegneria, dottorato, seconda laurea, assegni di ricerca, esperienza all'estero, e alle mie lamentele sul fatto che non mi capitasse mai di superare un concorso a tempo indeterminato, il mio anziano professore mi diceva: guardi, in realtà in passato era meglio, quando si facevano le commissioni, alla fine ci si metteva d'accordo, diceva: ne passa uno mio, uno tuo e uno bravo. Concludeva in questa maniera. C'era quota bravi. Che amarezza. Cioè, vedeva sempre. Sì, un 33% di quota bravi. Nella lottizzazione c'era la quota bravi. Sì. E questa cosa per lui risolveva la questione. In realtà non risolveva niente, però diceva che un tempo uno bravo ne passava. Uno era bravo. Per sbaglio. E quindi, Francesco, la ringraziamo, che amarezza. Il manuale Cencelli dell'università. Si è raccontato così, però non era male, effettivamente. No, no. Allora, ma è il momento, alle 10:11 minuti della funambola del giorno. Oggi una storia straordinaria. Chi funambola? Nome: Anna. Cognome: Ammirati. Età: 65 anni. Non vedente dal 1992, fa la guida turistica a Venezia. Voi capite, nata e cresciuta tra Cagli e Campielli, Anna Ammirati, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Dal 1992, sentite già. Salve, che voce squillante. Anna, che bella voce. Dal 1992, come ha detto lei, scrivete pure ieri sul Corriere della Sera, completamente cieca. Fa la guida turistica e si orienta grazie agli odori della gomma lacca, del cuoio, del pane, della pece, girando per Venezia. È una storia stupenda. È complicato o no? Come? È complicato o quello che fa oppure no? Ma intanto io premetto una cosa: io faccio la guida turistica, diciamo, per passione, non per professione, perché io amo la mia città e quindi quando vengono amici, parenti, conoscenti, io voglio fargli conoscere la Venezia che io ho conosciuto da bambina e che ancora in qualche posto sopravvive. Diciamo che questa mia così peculiarità di conoscere molto bene la città deriva da due fattori. Uno, perché ho sempre ascoltato molto, vedendo sempre da bambina pochissimo e poi nulla. Ma lei vedeva, com'è la storia della sua vista? Io sono nata ipovedente gravissima. Sì. E comunque non sono mai stata esclusa e messa lì nell'angolo, tanto tu non vedi, tu tocchi, tu annusi, tu ascolti. Puoi mettere in atto altre tue capacità. E così è stato fatto. Infatti si orienta così, seguendo profumi, seguendo i suoni. Certo, e conoscendo i miei piedi, conoscono la città. Come guida io esco quest'anno con il progetto collaterale alla Biennale della Catalogna, che ha creato un artista, Antoni Abad, ha creato questo progetto La Venezia che non si vede. Sì. La Venezia che non si vede, che è una mappatura di Venezia attraverso quelle che sono, diciamo, la collaborazione degli studenti dello IUAV, del Comune di Venezia, della Fondazione Raymond Lull, che alla fine poi ha prodotto questi giri in barca guidati da me come veneziana e da un'altra ragazza in gambissima che io ci tengo a nominare, Giulia Oblag, che lei collabora con questo progetto, perché Venezia, si deve sapere, ha due aspetti, l'aspetto terra e l'aspetto acqua. Chiaro. Certo. Ma le prime volte che faceva la guida, come reagivano le persone che venivano con lei a questa? Molti si sono messi a piangere, alcuni erano estremamente stupiti, altri mi chiedevano: ma veramente lei non ci vede? Perché io gli facevo notare il rumore della barca che passava sotto i ponti, gli facevo notare la barca, perché io giravo, noi giriamo con delle barche molto particolari, sono delle barche recuperate da un'associazione di giovani, e ci tengo a dire giovani, che amano Venezia, amano le tradizioni, insegnano la voga alla veneta, ti fanno vedere una Venezia diversa. Questo è il bello. È questo il bello. Anna, ma il rapporto con gli altri sensi è questa la cosa più affascinante, appunto, che magari per chi vede a volte è così, è minore, è un po' compromesso, gli diamo meno attenzione. È come se ricostruisse un altro tipo di vista, cioè come se lei vedesse attraverso gli altri sensi. Sì, perché chi vede ha il famoso colpo d'occhio. Vede ma non guarda. Io uso le mani, gli odori, uso i suoni. Io ho dei suoni che nella mia mente non metabolizza, tipo i trolley. L'invasione dei trolley a Venezia è un suono che nella mia mente non entra con questo il suono. Questo è un punto interessante. Lei odia proprio quel suono del trolley, ma quale? Cioè proprio il suono delle rotelle che rotola sul ciotolato. Perché sul nostri basegni. L'acciottolato di Venezia si chiama nei Masegni. Ecco, il trolley sobbalza, è un continuo, e il veneziano che presta ascolto non lo metabolizza, non lo riconosce, perché è disomogeneo, com'è. Non c'entra per niente. Lei invece è una tortura, per lei è una tortura, no, proprio. Io sono una tortura. Io sono una veneziana che ama la sua città. Io non dico che le persone si debbano, apprezzo chi porta lo zaino, che magari te lo dà addosso, però non fa rumore. Senta, no, per contattarla, Anna Ammirati, cioè chi volesse fare una visita di Venezia diversa, alternativa, c'è un modo per mettersi in contatto? Io rimango a disposizione di tutti, ci sono decine di persone che hanno il mio numero. Io non chiedo assolutamente niente, perché io non sono una guida, le vere guide hanno altre caratteristiche, altre competenze, non mi definisco una guida, io mi definisco un amante della mia città, e che quando qualcuno vuole viene, mi viene a prendere a casa e io li porto a spasso per Venezia, così, facendogli notare molte cose, facendogli toccare molte cose. La gente restia a toccare, ma io dico sempre: noi viviamo in una città fatta completamente a mano, mettete le mani, perché dietro a quel pozzo, dietro a quella balaustra, dietro a quell'angolo di Pietradistria ci sono vite che hanno lavorato, e hanno lavorato con passione. Ecco, non è vado in piazza San Marco, per carità, meravigliosa, con tutta, però c'è tanta altra Venezia. Sì. Io invito anche le persone che vengono a Venezia, sono disposta a accompagnarle, per vedere una Venezia diversa, che non è quella della gondola, che ha tutto il suo pregio, che ti fa vedere le cose belle, le cose nobili. Io li invito certo, a venire a fare signora, un giro. Ma certo, signora Anna, noi la dobbiamo salutare, però vede, già qua ci scrivono di dire come facciamo a contattarla. Non so, cosa possiamo fare? Non possiamo dare il suo cellulare? No. Una mail. Sì, io sono Ammirati Anna 1. Sì. Ammirati Anna 1. @gmail.com. Perfetto, è molto Ammirati semplice. @gmail.com. E attraverso l'udito posso dirle che si sente la passione che ha per questa città. Ah, ma assolutamente sì. Allora, scrivetele se volete. Voglio davvero di venire a Venezia e a contaminarsi della città. Tanto perché sembra molto, più questo. È molto semplice la mail. Ammirati Anna 1@gmail.com. Ma che bella storia. Accidenti. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, eh? La funambola di oggi ci ha veramente colpito, ma bella storia. Si va avanti. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i funamboli. Sono le 10 e 20 minuti. Allora, Veronica, allora Leonardo, dobbiamo dare subito il buongiorno a una persona che è fratello del ciclista Michele Scarponi. Forse ricorderete tutti, ci fu anche un'ondata veramente di commozione, di vicinanza, quando Michele Scarponi, professionista del ciclismo, fu ucciso, travolto da un furgone mentre si allenava. Era il 22 aprile del 2017. Sì. Salutiamo il fratello di Michele Scarponi, Marco. Buongiorno e benvenuto e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei. Grazie. Perché lei ieri ha scritto una bella lettera, un'intensa lettera al Corriere della Sera, prendendo spunto da un appello che ha fatto Alex Zanardi, altro grande campione dello sport, che ha voluto fare un appello proprio a tutti coloro che in macchina guidano distrattamente, distratti da cosa? Cellulare, oltre che poi non parliamo dell'effetto delle sostanze stupefacenti o dell'alcol, eccetera. Perché ha sentito questa esigenza, Marco? Beh, ho sentito questa esigenza perché dopo quello che è successo a mio fratello, ma anche prima, mi sono un po' guardato intorno, ho studiato un po', ho osservato le nostre strade e ho visto che ci sono molti problemi da risolvere. Qualcuno è ora che si impegni seriamente, come stanno facendo poi altre associazioni con cui ho avuto contatti, che mi stanno dando veramente grandi insegnamenti, come l'associazione di Stefano Guarnieri, che non so se lei conosce, Lorenzo Guarnieri, sì, Mortus, sì. Di Firenze, l'abbiamo avuto il padre ospite. Stefano è veramente una grande persona, un guerriero che mi sta facendo veramente scuola e mi sta mostrando, no, tutti i suoi progetti e il modo migliore per affrontare questo problema. È un problema veramente cruciale in questo momento. In Italia abbiamo 4.000 vittime l'anno sulle nostre strade, no? Muoiono di una morte violenta. I dati sono terribili. I dati dell'Istat dell'anno scorso parlano di 175.791 incidenti stradali con lesioni. Esatto. Dovuti spesso alla distrazione, proprio dall'uso del telefonino, è il classico. La distrazione, l'uso del cellulare e poi c'è l'alcol, la droga. Sono queste le maggiori cause. Poi il problema è anche, no, le nostre strade non sono neanche più, no, in grado di contenere un traffico, no, con ciclisti, pedoni insieme, c'è un enorme problema. Comunque la sensazione è che quelli che guardano il telefono mentre guidano siano sempre di più, basta guardare al semaforo in coda. Cioè che ci sia un livello di disattenzione e incuria profonda. Sì. Ma è da qui che Alex Zanardi, proprio guardandosi intorno mentre guidava, ha detto è incredibile, cioè ormai vedi soprattutto nelle città, quando uno pensa vabbè ma si va più piano e invece poi i rischi ci sono. Il problema è che uno pensa sempre guarda gli altri, a me non capiterebbe di sicuro di distrarmi, invece poi capita a tutti. È così. Infatti l'associazione di Stefano Guarnieri non dice di educare, sì, ma anche, no, poi di sanzionare, no? Perché alla fine c'è anche un controllo che va fatto. Purtroppo non si riesce a controllare tutto perché, no, ci sono delle zone che rimangono buie nei momenti che non sono incontrollati. Lì a questo punto bisogna sicuramente agire con la cultura, con la civiltà, che solamente attraverso la civiltà io penso si possa abbattere l'inciviltà in questo momento. Ci fu, Marco, una grande ondata di anche vicinanza quando suo fratello fu ucciso, perché era un campione molto amato, un campione del ciclismo, stava per prepararsi per il Giro d'Italia, insomma era una persona inutile. Mio fratello era una persona piena di energia, una persona che amava la vita, era a suo modo, faceva il bene non solo del ciclismo ma anche di tutti coloro che l'hanno conosciuto, quindi ha lasciato un'eredità, dei segnali molto molto forti, e noi, no, attraverso la fondazione che andremo a fare tra non molto, cercheremo di portare avanti oltre alla lotta, no, alla violenza stradale. Ma secondo lei i cellulari quanto sono stati determinanti in questo incremento della disattenzione? Cioè è proprio un fatto di assenza di attenzione generale, culturale, un'incuria complessiva, o dipende molto proprio dall'attaccamento a questi smartphone perpetuo, come se fossero delle appendici? Beh, impatto è anche culturale, però vedi, io vivo in un piccolo paese qua nelle Marche, non so come è la situazione nelle grandi città, però noi qui nei piccoli paesi appena scendiamo dal letto saliamo in macchina per andare al bagno, poi facciamo avanti indietro e andiamo in cucina, no? Per dirle. Quindi sì. In questo no, utilizzo estremo anche della macchina, anche no, per andare sì. a far sotto casa, per andare, no, forse no, c'è un uso esasperato. Poi sì, ci mettiamo dentro un cellulare acceso che squilla ogni secondo. È chiaro, cioè, è in treno in questo e momento. Poi l'altro problema magro, grave però... è quelli che non solo rispondono al telefono, ma guardano anche WhatsApp, sì, Facebook, sì. Proprio si mettono a guardare materialmente, come, il telefono. Come se fossero sul divano di casa, no? E invece stanno, si stanno muovendo. Comunque, oltretutto c'è un po' un senso, secondo me, di onnipotenza, nel sì. senso che quando si fanno queste cose, quando si guarda il telefono, davvero si ha la sensazione che non possa accadere nulla, cioè non ci si rende neanche conto, mentre purtroppo quelle sono le situazioni in cui una disattenzione è fatale. No, noi lo ringraziamo molto perché adesso la linea telefonica ci ha abbandonato, era in treno, e Marco Scarponi, lo ricordiamo, è il fratello del ciclista Michele che è stato ucciso e travolto nell'aprile del 2017. Faranno una fondazione, tra l'altro tutto quelli che saranno i proventi e tutto l'impegno della fondazione intitolata al fratello sarà proprio dedicata a questo tema della sicurezza stradale. Fa bene Alex Zanardi, e noi, come dire, qui da Radio 24 non possiamo che il problema è che c'è io almeno la sensazione è che ci sia in tante persone una specie di dipendenza proprio da telefonino, no, che in qualche modo andrebbe curata. Sì, perché poi sta diventando progressivamente sempre di più proprio una sorta di assuefazione. Ormai si fanno gli esperimenti, vi ricordate quando parlavamo delle scuole, del togliere i telefoni a scuola? Sì, però io dico, cioè, almeno quando si guida, ragazzi, ragazze, ecco, quando si guida, o almeno fino a quando non ci saranno le macchine che vanno completamente da sole, ecco, a quel punto. Tra l'altro, sentendo anche le vibrazioni dei pedoni, tutto. Alle 10:26 minuti ci sono tanti ascoltatori. C'è Roberto, ci chiama da Bologna. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno, sono veramente contento che mi avete richiamato, e soprattutto perché al pari di Barisogno ho una stima per voi mostruosa, quindi al pari di Barisoni, nel senso che Barisoni ci stima. Barisoni perché economicamente parlando per me è molto molto bravo, come Milan è pazzesco, la mattina lo ascoltavo sempre, è incredibile. Adesso non più. Però no, sono Milan, cioè, come non più? Adesso ho smesso. Mi stai ascoltando, Roberto? Roberto. Ascolto sempre Radio 24 e questa cosa di questa telefonata del fratello di Scarponi mi ha fatto ricordare un mio amico che purtroppo è venuto a mancare a Bologna, travolto da una persona al telefono sotto effetto di stupefacenti. Addirittura, morto, cioè telefono e stupefacente. Beh, stiamo veramente parlando di niente, perché ci sono le leggi, non vengono messe in pratica. A Bologna hanno messo sui viali, faccio un esempio stupido, due autovelox, sul viale bisogna fare 50, c'è stata una mozione popolare per farli togliere, cioè è pazzesco. Sì, la velocità è un'ulteriore questione, certo che però telefonino e effetto sotto però quello che voglio dire è questo: quando è che si può equiparare la macchina condotta da una persona che è bevuta, pippata al telefono ad una pistola? È la stessa identica cosa. Io conduco un proiettile su una strada ai 200 quando ci sono le strisce pedonali e c'è magari una scuola dove i bambini attraversano le strisce pedonali. Per alcuni versi la legge sull'omicidio stradale, quella nuova, che ha fatto un po' questo, poi è una legge di cui si potrebbe discutere a lungo, però è quello che un po' è successo. Perfetto, mettiamo in pratica, facciamo un grande fratello dove mettiamo questa gente nelle carceri, ok, e la facciamo spurgare per 10 anni. È colpa mia. Cioè, c'è la possibilità a una persona, viene data la possibilità di togliere la vita. E se questa persona non ha una coscienza sua, questa il giorno dopo vive di nuovo la sua vita normalmente, quando la famiglia della persona che è venuta a mancare è distrutta. No, ma Roberto, certo, certamente ci racconta la storia e non la sapevamo, l'abbiamo all'inizio presa anche per scherzo, però poi ci ha raccontato una storia molto, molto intensa e la ringraziamo. Grazie del racconto. C'è da dire che ci chiedono, come ancora di ripetere la mail invece della funambola di oggi, ci chiedono: ma l'uno è in cifra o in numero? Ma no, dai, in numero. Ammirati Anna 1 in numero @gmail.com. Sì, dai, l'uno è in numero. Se volete contattarla, è la funambola che fa se la volete, guida. Se volete, vi ripeto turistica. Anche il numero degli SMS e la tabellina del 9. Volete? No. Vorrei la tabellina 7x8. 56, ma che stai a fare davvero con me? Sti bonusi, È il momento della borsa. I funamboli. Radio 24, siete meravigliosi. E Alessandro Milan, dopo il caffè, il più grande piacere della mattina. Io saluto solo la gentile. Leonardo, tappeto il mio locale passaggio sulle scale mobili. E capite, ego di che, ha per mia, no? Allora... Certo, gentili che... intanto, ecco. Gentili. Io ripenso facciamo a quella ragazza con anche una bella voce, ma dire che Alessandro Milan è il più grande piacere dopo il caffè, ecco, della mattina, dispiace per la sua vita, diciamo. Tutti ci siamo posti profondamente dei problemi. Però ammiratrice, la mia, ti abbraccio Alessandro, da lontano. Ma cosa gli fai alle donne? Ma niente. Ma non intendevo che le meni che mi rispondi. No, ma niente. Però a ripensarci, la domanda era: ma che cosa gli fai? Ma che cosa fai loro alle donne? Però pensandoci bene, tocca il più grande piacere dopo il caffè, che già non è un grandissimo piacere, quindi è un piacere minore. Se facciamo altri due secondi di esegesi della frase, finisce che in realtà sentire Milan è un dolore. Il caffè al mattino è abbastanza un piacere. Sì, però anche venire la gastrite. Eccolo lì, va bene. Potrei dire anche tante altre cose, però lasciamo perdere. Va bene, fermiamoci qui. È il momento del nostro defurbizzato. Perché mettete questa musica brutta in sottofondo? Cioè, mettete la nostra bella sigla. Perché sentimentale per cosa tu fai alle donne. No, ma perché allora... So much. Questa musica è... Oh, questa è una musica... Defurbizziamoci. Ora sì che ti senti vivo, eh? Ora sì che abbiamo della bella musica per le nostre orecchie. Questa sigla è la cosa che più piace ad Alessandro di tutta la mattina. Questo mi dà da pensare. Dopo il caffè e dopo la nostra ascoltatrice. Ma perché non te lo fai mettere come suoneria del cellulare? Perché impazzirei. Pensaci, io ti chiamo ogni 12 minuti. Allora è il momento, se avete capito, in cui i furbi d'Italia si riuniscono. Furbi di tutta Italia, unitevi, come diceva quel tale più famoso. Ed è il momento di Roberto, buongiorno, ci ha scritto una mail. Buongiorno. Funamboli. No, un WhatsApp. Vabbè, però potete mandare anche la mail a funamboli@radio24.it. Era un modo per dirla, Roberto. Sì. Roberto, che hai combinato? Ma no, è una storia legata a tanti anni fa, quando sempre, ho fatto una vacanza in viaggio, ero giovane. Sempre. Quando non l'abbiamo capito. Aspettano tutti la prescrizione, che ci sia la prescrizione, almeno morale. Cosa ha detto Roberto, legato tanti anni fa, quando? Sì, nell'89-90, avevo fatto una vacanza in Grecia e per farla ho raccolto tutti gli spiccioli che avevo. Avevo raschiato i cassetti, non avevo più un soldo a casa e sono partito. Sono tornato, avevo speso tutto e devo fare ancora 10 giorni. Per attendere lo stipendio non avevo una lira. E è successo che sono venuti i ladri a casa finché ero via e mia madre mi ha detto che sono venuti a rubare, che però i carabinieri li avevano beccati e avevano in tasca trovato 3 collanine e 100.000 lire. E mia madre ha detto: 2 collanine sono mie, l'altra non era mia, l'ho restituita. Ho pensato che 100.000 lire fossero tuoi. E ho detto: guarda, li ho lasciati, li ho dimenticati a casa, invece in realtà erano degli zingari, me li sono venuti io. E glieli ho fatti fuori. Tu hai preso dei nostri soldi, hai rubato dei miei soldi. Fatemi capire. Roberto sta dicendo che ha operato un furto a danno degli zingari. Cioè ha rubato 100.000 lire agli zingari. Sì, praticamente. Roberto, sei ospite della Zanzara oggi. Volevo dirti questo. Credo che riceverà una medaglia con la Zanzara proprio impressa. Sono rifatti, sono stati altri 2 volte a casa. Vabbè, diciamo, sei venuti a riprendersi le 100.000 lire. Questa volta non nemmeno potevi denunciare. Quindi sei in questo momento sei in perdita con gli zingari. Sicuramente sì, però insomma la soddisfazione di aver fatto, avevo bisogno di soldi per arrivare allo stipendio, pertanto quei 100.000 lire mi hanno aiutato a fare quei 10 giorni per... Soddisfazione di aver preso noi dei soldi dei zingari, no, tu hai comportato bene, vergogna. Qua abbiamo è entrata subito un ospite da un campo rom. Però in realtà i soldi li ha presi la mamma, cioè non è stato nemmeno lui. No, i soldi mia mamma ha detto: questi qua non sono miei perché non hanno toccato i soldi che avevamo in casa, questi 100.000 lire qua non sono miei, saranno tuoi. Io ho detto: guarda, Sì, sono sicuramente certo. miei. Quindi innanzitutto fregata la mamma, che dici, sì. vabbè, nel dubbio, no? Quindi fregata la mamma e fregate gli zingari. No. Mia madre è molto attenta su queste cose qua, no, non erano sicuramente suoi. Non erano neanche miei, però sono diventati miei. Vabbè. Ma la mamma almeno è mai stata detta la verità, no? Sì. E dopo qualche anno. E agli zingari? Agli zingari, bah, penso se ne siano... sono ricordati della cosa e poi sono tornati su un paio di sì, volte. Certo, perché hanno detto aspetta, ma noi ci avevamo... Ci sono toccati in tasca, hanno detto, ma quindi 100.000 lire. Ma no, vuoi vedere che è stato quello del quarto piano? E le due volte successive ti hanno portato via che cosa? Vabbè, ma insomma hanno fatto danno più che altro ai miei genitori, hanno portato via gioielli, hanno fatto danni in casa... robe di valore, insomma parecchio valore. Però insomma, Roberto, visto che allora sei stato poi danneggiato successivamente, sì, hai diritto alla patente nostra. Defurbizzato. Grazie. Defurbizzato. Dai. E dopo grazie, questo colpo grazie. Di mitragliata come ti senti? Sei un uomo nuovo? Sicuramente. Beh, ma insomma noi diamo una nuova verginità. Grazie Roberto, grazie per aver raccontato grazie questa voi. Vicenda. Ovviamente che risale da anni. Sempre, sempre. Millenni. Era ancora prima che cadesse il muro, sì, non sì, si sa neanche quale muro. Le lire. C'è Gaetano che ci chiama da Napoli. Buongiorno Gaetano, che ci vuole dire? Buongiorno, volevo dare il mio contributo a proposito degli incidenti. Sì. E volevo dire che quest'anno per ferie ho deciso con mia moglie di fare un giro in Italia in auto. E praticamente è successo che mi sono reso conto, cosa che sentivo dire ma non avevo mai visto io di persona, mi sono reso conto che in Italia ci sono tanti di quegli autovelox, ma tanti, quasi quante macchine ci sono. Gli autovelox, Cosa succede? Sì. Che su una strada a scorrimento veloce, d'improvviso, si trova sto benedetto cartello dell'autovelox e la gente ti tira il freno davanti con il rischio di far succedere incidenti. Vabbè, adesso non è che gli autovelox sono cause degli incidenti. Lei molto dice. Spesso lo sono, tant'è vero che... Se uno rispetta le velocità e la segnaletica, in genere gli autovelox sono segnalati. Ci sta un... Certo, un se uno andava a 120 e deve andare di colpo a 50 e frena, no? Il discorso è questo. Allora, io mi trovavo su una strada provinciale, a scorrimento veloce, d'improvviso un segnale che diceva che ci stava nelle prossimità l'autovelox. Su una strada provinciale, dove in media si corre... si cammina a 70, 80, 90 km all'ora, d'improvviso c'è stato l'autovelox a 60 km all'ora. Sì. E la gente arrivata là metteva il piede sul freno. E quindi, basta avere le distanze di sicurezza. Ma non è sempre così, non è sempre facile. No, non voglio fare, come dire, il... Ma le voglio dire una cosa, io a Sino ho trovato un autovelox su una strada che... Ma una strada dove si poteva camminare tranquillamente a 80, 90, 100 e a 100 km all'ora. C'è stava questo autovelox, il quale addirittura è stato pigliato a fucilate. Colle di mala merenda. Hanno eliminato il nemico. Gaetano, però scusi, il messaggio... Allora, che ci sia un problema di comuni che anche per far cassa utilizzano gli autovelox, è vero. Però adesso, se il messaggio deve essere gli autovelox causano gli incidenti e rispettate le distanze di sicurezza, a B, se causano incidenti li prendiamo fucilate. questo ecco, è un sistema... Non è proprio... Un pochino così. Non è il messaggio che... Ecco. È la prima volta che sento dall'autovelox preso a fucilate. Non vorremmo far passare questo messaggio. Comunque la ringraziamo. Non vorremmo Gaetano. Far passare anche questo messaggio. Anche già. Ad altri messaggi. Comunque è arrivata la verità. La verità è questa: Manera non ha votato perché Manera non esiste. Signor Bonetti, Bonetti Leonardo. Non leggo questo messaggio sul piacere dopo il caffè perché vado al traffico. No, non è giusto. Traffico, te lo mando privatamente. Va bene, traffico. Però subito e poi lo leggo io. Traffico, no. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i funamboli. aver ascoltato la signora Anna e la sua passione per la sua città veneziana ripaga di tutta la noia e l'irritazione per i tristi spettacoli a cui assistiamo, tra stragi, politici e tante altre brutte cose. È vero, è vero. Vabbè, dai, Veronica, su, fallo. Vabbè, no, che cosa? Volevo dire, rispetto all'intervento della signora, al messaggio vocale di poc'anzi, in cui diceva che Alessandro Milan è il più grande piacere dopo il caffè la mattina. Il messaggio si chiede: se è il più grande piacere dopo il caffè, sarà mica stitica? E devo dire che nella mente di tutti noi la faccenda era passata. Doveva dirlo, ce l'aveva non dita, ce l'ho fatta, purtroppo non mi sono potuta trattare. Standing ovation. Vedi come da un complimento si può passare poi al suo contrario. Sì, basta che lo mettano in mano a noi, Leo, ce lo mettono in mano a noi, un complimento per Milan. Ci scrivono anche: avete tutti i requisiti per iscrivervi al gruppo Facebook Amici di Franco Basaglia, colui che ha fatto chiudere, ricordiamo, i manicomi. Bello, grande, arrivo, grande il dottor Basaglia. Questa sempre è una delle più grandi verità che mi abbiano detto su me stessa, la ringrazio davvero. Sì, vabbè. Leonardo. Oh, io voglio terminare quasi questa puntata con un momento di servizio pubblico. Finalmente. Ci sono sempre tanti extracomunitari in Italia, quindi è giusto far sapere a loro quali sono le parole importanti da conoscere per vivere qui in Italia serenamente e nel migliore dei modi. Quindi proponiamo il caro Peter Bescapè. Centro di il corso di integrazione per extracomunitari. Sì, no, la sigla ce l'hai, Peter. La sigla. No. Era il momento della sigla. Non importa. Allora, corso di integrazione per extracomunitari. Vediamo alcune parole importanti da conoscere per gli amici extracomunitari. Maria De Filippi. Uomini e donne. Tatuaggio. Muscoli, cozze master chef, craccare significa, se riferito a programmi software craccati, vuol dire copiati illegalmente, oppure se riferito allo chef cracco significa rispondere in malo modo. Per esempio, mi hai chiesto un favore, io ti ho craccato, ti ho mandato a quel paese. Il nostro paese, il bel paese, si guarda il Grande Fratello VIP, amarezza, il Grande Fratello VIP, televisione, Maria De Filippi. C'è posta per te, scappare, vacanze, autogrill, panino fantasia, fattoria, Icaro, Emiro. Una volta in autogrill ho chiesto un Emiro, mi sono ritrovato in macchina uno sceicco. Ho dovuto accompagnarlo fino a Dubai, dovevo uscire a Parma Ovest, Parma di remazione per la spezia Aulla, Versilia, Forte dei Marmi, Briatore, Nathan Falco. Bello, bello il nome Nathan Falco. E poi ti lamenti se i figli quando sono adolescenti odiano i genitori. Versilia, Ferragosto, partenze intelligenti, ma io stimo le altre persone, parto quando partono gli altri, altrimenti se partissi quando gli altri non partono sarei presuntuoso e penserei che gli altri sono cretini, quindi parto quando c'è il bollino rosso. Coda sulla A7 Milano-Genova, diramazione per Milano, vento forte fra San Vittore e Caglianello, perciò vado col treno, ferma a Savona, Bergeggi, Pietraligure, Sora, Frosinone, Milano-Lambrate, Messina, Termini, Imerese, Pavia, Maria De Filippi. Allontanarsi dalla linea gialla, già in linea gialla, i cinesi tengono sempre i bar aperti e comprano i bar con le valigette piene di contanti, i bar chiudono quando c'è il ponte lungo, non faccio il ponte, guardo la TV, Maria De Filippi. Pubblicità, pausa caffè normale, caffè macchiato, caffè corretto, marocchino, moccaccino, gastrite, pronto soccorso, piacere del caffè, Alessandro Milan, codice rosso, pericolo di morte, codice giallo, problema grave, codice verde, problemino, codice bianco, pensionato che non ha niente da fare, pensionato, pensione, sogno per quasi tutti gli italiani, io non ce l'ho la pensione, mi consolo con una pasta al forno, fornetto, fornero. Io se fossi un immigrato prenderei in seria considerazione l'idea di rimpatriare. Vedi, per esempio, questo è un disincentivo importante, che può essere anche una strategia politica rispetto ai problemi con i flussi migratori. Assolutamente sì. Comunque questo è il corso per gli immigrati, Non si è parlato di Tina Cipollari, però. No. Oggi abbiamo parlato di Maria De Filippi. Critico MDP. Critico MDP. Sì, lo facciamo il venerdì, il riassunto della settimana. C'è Marisa che ci chiama da Savona. Buongiorno, Marisa. Buongiorno. La mia attività professionale si è svolta fra Roma, Firenze e La Spezia. E volevo dire che questo scandalo dei concorsi non è solo in università, ma anche in sanità. E ho denunciato più volte firmandomi, ma mi sono trovata anche in commissione di concorso per fisiochinesioterapisti, per terapisti di riabilitazione, dove nel caso in cui mi sono accorta che si volevano far passare persone non idonee o perlomeno soprassare ad altre che avevano uguale formazione, io mi sono opposta e il presidente è dovuto andare alla Procura della Repubblica per dire che si rifaceva da capo il concorso. E questo, come altre mie denunce, compresa una diretta alla Procura della Repubblica, le ho pagate care, perché mi sono sempre trovata sola nel combattere queste cose. No, ma è chiaro, quindi anche nella sanità. Complimenti Marisa, che nella sanità mi ci vengono i capelli dritti proprio, mi vengono i capelli dritti, perché poi sono le persone che ti curano rispetto a quelle che sarebbero capaci di curarti. Comunque Marisa fa bene a fare queste denunce, però c'è l'amarezza poi a dire ci si trova spesso isolati, ed è uno dei temi che abbiamo affrontato oggi, ci torneremo! Cari amici, vogliamo salutare un po' tutti? Peter Bescapè in regia, chi c'è lì adesso? Valerio Rocchetti? C'è quel gran figo di Alessandro Chiappini. Ah, ecco, perché Valerio Rocchetti cacciano a calcio. Salutiamo anche Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi in redazione, qui come Funamboli. E andiamo a berci un caffè. Un caffè che fa venire la gastrite. Cappuccino, prima un caffè, Leo, e poi qual è il tuo più grande piacere dopo il caffè al mattino? I Funamboli tornano domani alle 9. La sciocchina dopo il caffè.